basta intervenire dopo che il danno è stato fatto. Questa è già una buona domanda. Ma allora, mettiamo insieme solo queste due cose per continuare a discutere. Da una parte vi dicono, voi vedete che ci sono un sacco di lavori da fare. Dall'altra vi dicono, no, non ci sono finanziamenti a sufficienza. Dall'altra vediamo che ci sono un sacco di giovani disponibili a lavorare, che hanno competenze, magari sono laureati o semplicemente sono persone in grado di lavorare, insomma. E questo lavoro non si fa. Come mai? Se volete capire le cose dovete farvi delle domande. Può ripetere la domanda? La domanda è questa. Da una parte ci sono un sacco di... Se uno si guarda intorno dice, ma come mai non si sistema questa strada? Come mai non si sistema questa scuola? Come mai se manca un ospedale o mancano posti in ospedale non si fa un altro ospedale? Come mai invece si chiude un ospedale? Come mai si danno meno soldi alla scuola? Come mai non si fanno i lavori pubblici necessari? Come mai non si interviene per il dissesto idrogeologico che darebbe lavoro a un sacco di persone? Come mai il patrimonio artistico-culturale spesso è lasciato in uno stato di abbandono? La risposta che arriva quando fate queste domande è questa. Non ci sono soldi. Mancano i soldi. La domanda è questa, l'articolo in maniera più... Contemporaneamente a questo stato di fatto, ai giovani che cercano lavoro, gli si dice non c'è lavoro. Allora voi vi guardate intorno e dite, ma come? Si potrebbe sistemare quella scuola, si potrebbe sistemare quell'opera, restaurare, eccetera, eccetera. Si potrebbe intervenire e... il dissesto idrogeologico intervenire, quindi si darebbe lavoro a un sacco di persone, si potrebbero sistemare le scuole che ci sono, si potrebbero costruire quelle che mancano, si potrebbero aprire altri ospedali, si potrebbero fare un mare di cose, se mi metto vi faccio una lista lunghissima. E però quando voi dite queste cose qui vi dicono, sì lo so, ma mi dispiace, non ci sono i soldi. Allora qui la domanda diventa, ma come non ci sono i soldi? Che significa? E vi siete mai fatto un'altra domanda supplementare a questa? Cosa sono i soldi e da dove vengono? Qualcuno vi potrebbe dire, i soldi vengono se lavoriamo. Allora voi potreste dire, ma se non mi fai lavorare? Capite, la domanda diventa anche come si genera la ricchezza di un paese? E la risposta ce l'avete nel primo articolo della Costituzione, non a caso. Cosa c'è scritto? Allora, intanto se cominciamo a sentire i vari interventi, cosa c'è scritto l'abbiamo letto qualche giorno fa. L'Italia è una repubblica fondata, una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ok, allora, ora sentiamo. Prima aveva alzato la mano lui. Tu avevi detto qualcosa, ripeto. Secondo me tante volte a voce alta, se no nessuno ti sente. Tante volte i soldi vengono sprecati, tu dici. Cioè, sì. Allora, tu pensi così, c'è una certa quantità di soldi, si spendono male. Facciamo un esempio, ce l'hai un esempio. A me piace, lo guardo, ma c'è lì tanti soldi. Vengono sprecati, te dici si potrebbero utilizzare. Io aggiungo un altro esempio a quello che tu dici che è importante. Noi ogni giorno spendiamo nel settore militare più di 70 milioni di euro al giorno. L'Italia è impegnata in 37 missioni, di cui 35 internazionali all'estero. Va bene. In 22 paesi diversi che non sono l'Italia, d'accordo? Quindi spendiamo un sacco di soldi nel settore militare. E quindi anche questo può essere un esempio del fatto che i soldi li spendiamo altrove, quelli che abbiamo. Ok, ma c'è di più rispetto a quello che tu dici. Tu avevi alzato la mano prima, prego. Puoi abbassare tanto più. C'era una perdita del muro che andava addosso a una fila. Che andava addosso? A una presa di corrente. Ah, ecco, vedi. E che secondo me non ci sono i soldi da spendere perché il governo non dà fondi. Allora, sì, perché il governo non dà fondi, non dà soldi. Quindi tu dici, nella tua visione il governo c'ha i soldi, però se li trattiene, non li usa. Sì. Nella tua visione... Perché credono che non siano davvero... Cioè, che non ci saranno davvero. Che non? Ci saranno davvero. Ok, tu dici, il governo c'ha i soldi, però se li tiene per sé, non li usa. Ok. Sentiamo cosa pensa lei. Sono dell'idea che il governo i fondi ce l'abbia, però in particolare le scuole non li vuole dare perché un paese ignorante è più facile da comandare, come ad esempio in Venezuela che non fanno legge in determinati libri, questo e quest'altro. Lo stesso in Italia tagliano fondi per far uscire dalle scuole capre, oppure non facendo andare i ragazzi a scuola perché ovviamente chi ci vuole andare in una scuola come Buonarroti, in modo che le persone siano ignoranti, è più facile da controllare. E tu pensi che questo sia il governo che abbia deciso così? Perché in un paese democratico il governo è il risultato di che cosa? Le persone che vengono, le persone che vengono elette, chi le elegge? Ecco, tu dici, allora, la sua tesi è questa, no? Avete capito come pensa lei? Lei dice, ma il governo per tenere tutti sottomessi non spende, per esempio, in cultura, stai facendo capire, no? Quindi, se leggete l'articolo 3 della Costituzione, c'è scritto che cosa? Vi ricordate? Che ogni persona ha diritto a che cosa? A crescere, a evolversi culturalmente, spiritualmente e così via. Quindi la Repubblica siamo tutti noi, attenzione. Cosa abbiamo deciso? Di muoverci in questa direzione, dare a ciascuno, indipendentemente dalla famiglia in cui è nato, se è povero, se è ricco, eccetera, eccetera, dargli le stesse possibilità, no? Per esempio attraverso la scuola pubblica. Se io nasco molto povero, la scuola fosse, immaginate una situazione di questo tipo, nasco poverissimo, la scuola è a pagamento, allora non potrò frequentarla. Se nasco poverissimo, la sanità è a pagamento, allora non mi potrò curare. Se nasco poverissimo e tutti i trasporti non sono pubblici e costano molto, non potrò viaggiare. Lei ci dice, in questo modo rimarrò ignorante, quindi facilmente manipolabile. D'accordo? È il governo che decide questo? È importante saper scegliere, no? È importante anche avere da scegliere, avere tra cosa scegliere. Noi andiamo avanti, ce l'ho sentito bene. Secondo me, penso che ce la possiamo pagare, il governo pensa che ce la possiamo pagare da soli per aggiustare le scuole, perché per esempio anche la cura per il cancro, ci sono molte fondazioni che lasciano che siamo noi a fare queste donazioni, quando in realtà potrebbe benissimo il governo dare delle spese, però dicono vabbè, se la cavano da soli i cittadini, qualcuno ci sarà che farà la fondazione. E quindi lasciano fare noi da soli, quando non è detto che noi possiamo, con soldi che abbiamo, aggiustare una scuola. E poi anche per la questione del militare, molte missioni a volte causano dei morti in altri paesi e non lo sappiamo, però nella Costituzione c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra, non vuol dire che solo nel nostro paese dobbiamo ripudiarla. Giusto, sì sì. Avete sentito, è molto importante come ha detto lei, no? Ora convergiamo su una cosa. Prima, per capire cosa sono i soldi, vi faccio un esempio un po' paradossale, per capire cosa sono e come funzionano. Mi sembrerà strano, ma ha a che fare con la matematica. Mi sembrerà strano, ma ha a che fare con la matematica. La risposta a cosa sono i soldi, per quello che mi sono convinto a parlarmene. Dunque, per capire però che questo è essenziale, se voi chiedete in giro lo sanno pochissimi. I soldi sono una cosa che abbiamo sempre in mano. Diciamo che il 99% delle persone non sa cosa siano, anche se li usano tutti i giorni. Ed è per questo che la domanda la faccio a voi, ma prima vi metto in una situazione, diciamo idealizzata. Immaginate che stanotte noi andiamo a dormire, questo è un esperimento, diciamo così, una specie di sortilegio, va bene? Durante la notte accade, c'è un sortilegio, a noi ci serve per ragionare, non è una situazione reale, eh? Accade che l'indomani voi andate al bar, sapevate prima di andare a dormire che ci avevate 10 euro, 5 euro, una persona adulta magari ci aveva 50 euro e così via. Andate al bar, volete comprare il giornale, volete fare colazione, guardate e non ci sono più i soldi che avevate. Telefonate a casa e dite: ma come? Chi mi ha preso i soldi nel portafoglio? C'è, ma guarda, anche noi non troviamo più i soldi, forse sono entrati ladri. Andate in giro e scoprite che questa cosa non è successa solo a voi, ma è successa a tutte le persone che stanno nella vostra città. Va bene? Accendete il telegiornale e sentite dire che tutti i soldi sono scomparsi. Non ci sono più soldi in circolazione, niente, nemmeno una lira, anzi un euro. Una lira perché molto tempo fa c'erano le lire, va bene, in Italia. Lira significa, viene dal latino, libra, bilancia. La bilancia ha a che fare con la giustizia, ma ha a che fare anche con la misura, d'accordo? Allora, cosa succede se accadesse, cosa succederebbe se accadesse una situazione, se una situazione del genere fosse reale? La domanda che vi faccio è: ma noi tutti saremmo più ricchi, più poveri? E cosa accadrebbe nella nostra vita normale? Cosa accadrebbe? Allora, sentiamo Lorenzo. Scusa, Damiano. Secondo me... vengo da una classe dove ci sono tre o quattro Lorenzi, quindi magari, vai, Damiano. Magari è una prospettiva molto brutta, però secondo me cioè, ci morirebbe tutti per davvero, perché cioè, comunque i soldi dipende se continuano a valere o no. Nel caso continuassero a valere, non ci fossero veramente soldi, non potremmo comprarci da mangiare, non potremmo andare, e se non mangi muori. Sì, quindi tu dici l'economia si bloccherebbe. Sì. L'economia si bloccherebbe. Tu dici se questa cosa continuasse, le persone comincerebbero a soffrire la fame. Sì. Qualcuno potrebbe obiettarti: ma te hai mai mangiato, che ne so, banconote imbottite con banconote per vivere? Qualcuno potrebbe farti un'obiezione di questo tipo, va bene? Sentiamo cosa dice lei. Io sono dell'idea che, cioè, la società si è talmente tanto abituata a vivere con i soldi che sarebbe la rovina in pratica se scomparissero. Però si potrebbe trovare qualche, come viene la parola, un modo per vivere lo stesso, tipo ad esempio, non lo so, il baratto, cioè okay, riuscire a vivere anche senza soldi. E poi, cioè, secondo me si vivrebbe anche molto meglio, non ci sarebbero più le disuguaglianze che ci sono tra le persone, tipo ricchi, poveri, cioè saremmo tutti alla pari più o meno. Ok, ma se, allora ti faccio un'obiezione, io sono quello che fa le obiezioni per pensare. L'obiezione allora è questa: il baratto è comodo? Se io non ho nulla da barattare, cioè se improvvisamente c'è il baratto, divento ricco? Se non ho nulla da barattare, sono ricco? Ok, questo è una domanda così. Il baratto comunque, questo ve lo dico per inciso, ma diversamente inteso, poi magari ne parliamo, sì, è una soluzione, è una enorme, grande, bellissima soluzione, però dobbiamo capire come farlo il baratto, e ne parleremo in seguito. Allora, intanto sentiamo se lei ha ancora parlato meno, sentiamo lei. Allora la ricchezza che cos'è? Se non abbiamo più i soldi e il baratto, che serve il baratto? Se io ero ricca e do ad esempio una poltrona, mettiamo quello di finiture d'oro, a cambio, cioè per prendere in cambio una penna perché ho bisogno di scrivere. Quindi non hai più un'unità di misura per misurare che cos'è davvero la ricchezza. Perché se la ricchezza... Aspetta, sostituisci al posto di ricchezza la parola valore. Un'unità di misura, come hai detto tu, per misurare il valore delle cose. Perché i soldi alla fine sono un'unità di misura appunto per dare un valore alle cose. Quindi cioè, avere dei soldi è come avere tot valore che puoi rivendere per avere altre cose in cambio. Io dico, questo costa... 90 centesimi. Do un valore. I soldi cosa sono? Ecco la matematica. Un'unità di misura di cosa? Del valore delle cose. Quando io dico il secondo che cos'è? Un'unità di misura del tempo. Il metro? Unità di misura della lunghezza. Va bene? I soldi cosa sono? Unità di misura del valore. Ok. Tenete presente questo. È importantissimo. Io ti ho interrotto, scusa. Continua se c'hai... No. Riprendi bene il tuo discorso se vuoi. No. Ok, ma stavi dicendo qualcosa che tiene alla ricchezza e allo scambio, no? Allo scambio. Se dici, diventa difficile scambiarci gli oggetti se non abbiamo un'unità di misura del valore delle cose che scambiamo, no? Ok. Questa può essere una difficoltà insita nel baratto. Bene. C'erano delle mani alzate lì tra persone che... Sì? No, prima c'era lei, tra loro due, allora sentiamo lei e poi torniamo a Damiano, poi magari. Devo dire che da una parte sarebbe meglio, perché se in Italia è una repubblica fondata sul lavoro, cioè questo lavoro andrebbe fatto per tutti, non solo per se stessi, per comprare delle cose. Per esempio, la luce, le persone che lavorano nell'impianto elettrico direbbero non mi paga nessuno, smetto di mandare anche nelle case, anche quelli che producono il cibo, i contadini. Se non mi paga, allora penso di coltivare il cibo. Se invece te pensi che pagare sarebbe anche soltanto regalare qualcosa a altre persone, come per esempio, io so, faccio questo cibo, altre persone potranno mangiare, anche se non ci sono soldi. Lo stesso per la luce, tutte le persone potranno avere la luce che costruisce le case, i muratori. Ovviamente ci sarà qualcuno che dirà, ma chi me lo fa fare, cioè, se non mi paga nessuno, cosa sto a lavorare? Ma lì, cioè, hai un valore di te stesso, sì. Di fare del bene agli altri. Guardate questa parola, pagare. Pensiamoci un attimo. Pagare è una parola importante. Se voi avete prestato dei soldi a qualcuno e lui non ve li restituisce, lui o lei non ve li restituisce, passa del tempo e i soldi non ve li restituisce, voi potreste anche entrare in conflitto con questa persona. Ti dovresti restituire 10 euro, i 100 euro, i 1000 euro che ti ho prestato. Va bene? Potrebbe anche essere una somma importante. No, guarda, ti ridò subito, ti do subito. Poi non ti ridà mai, no? A meno che non siete dei santi, entrate in conflitto con questa persona. Ma come? Ti ho prestato i soldi, ne avevi bisogno, mi avevi promesso che... Guarda, anch'io ce ne ho bisogno. Allora, la parola pagare contiene al suo interno la radice di un'altra parola. È una parola composta. E sapete qual è la parola? Pagare. pace. Quando si restituisce un debito, contratto con una persona, con un ente, eccetera, viene firmata una ricevuta che si chiama, non a caso, la quietanza. Quietanza. Dentro c'è la parola quiete. Se si paga il debito, allora si riceve la quietanza e tutti sono in pace. Attenzione, questa è una cosa importantissima, perché ha a che fare con la guerra, d'accordo? E con i conflitti. Ci sono paesi indebitati con altri paesi. Ci sono paesi che sono stati volutamente indebitati con altri paesi. Si può fare in modo di indebitare un paese, renderlo povero, e potergli rubare le risorse che ha. Questo è un meccanismo infernale che è stato messo in atto negli anni passati ed è tuttora in atto. Allora, questo ve lo sto dicendo così per inciso. Ritorniamo a quello che diceva lei. Attenzione, lei ci ha detto: i soldi sono un'unità di misura del valore delle cose. Ha perfettamente ragione. Sono anche altro, vedremo che altro. Ma se qualcuno vi dicesse: questa strada non la posso costruire perché mi mancano i soldi, in qualche modo noi lo capiamo, ma è come se stesse dicendo: questa strada non la posso costruire perché mi manca il metro per misurare quanto è lunga. Un po' strano, no? Allora, stiamo cominciando ad addentrarci all'interno di questo concetto, cosa sono i soldi. Ora, c'era qualcuno che voleva parlare, chi erano? Alzate la mano. E anche te. Ok, tra un attimo vi do la parola, però vi fornisco quest'altra situazione. Voi siete su un'isola completamente deserta, naufragati, va bene? E l'isola è completamente deserta, non ci trovate proprio nulla da mangiare, non ci sono persone, non c'è niente, ma per fortuna avete $1 milione, potete stare tranquilli? No. È una vera fortuna? No. Siete ricchi? No. Vi chiedo di pensare a questo esempio per capire che cos'è la moneta, cosa sono i soldi, anche a questo. Ora ascoltiamo l'intervento tuo, prego. Allora, secondo me i soldi, oltre che essere un valore, cioè la misura di valore, tutta la misura di valore di un certo oggetto, io quando prendo qualcosa e la pago, per me è come se dessi alla persona che mi dà questo prodotto un tot di tempo che mia madre, mio genitore, mi ha passato a lavorare. E quindi è come se barattassi il tempo che hanno passato loro lavorando al prodotto che voglio prendere. E un'altra cosa, secondo me la situazione ideale, che però sarebbe la più difficile da creare nella città in cui non ci sono più soldi, è che ognuno fa e dà quello che può e sa fare. Giustissimo. Così che tutti abbiamo le stesse cose e riusciamo a mantenere le persone. Ora, tu non lo sai, ma il tuo è proprio un modello economico. Francese. È veramente un modello economico. È incredibile che tu sia arrivato a questa età. Sì. È un modello economico, tra l'altro parecchio giusto, e praticamente ci hai anche detto come funziona una banca del tempo. Una banca del tempo che cos'è? Va bene? Intanto io ve lo chiedo a voi, pensateci, cos'è una banca del tempo? Come funziona? In qualche città sono attive le banche del tempo. Banche del tempo sono molto importanti, ma hanno dei limiti. Ok, continuiamo, ora sentiamo Damiano. Tu cosa volevi dire, Damiano? Volevo dire, rispetto a Denise, che comunque è corretto quello che ha detto, cioè nel senso potrebbe essere ovviamente una società di baratte e tutto, però cioè, se succedesse veramente ad improvviso, come ha detto lei, non penso che una legge si possa creare da un momento all'altro, perché deve essere approvata e tutto, e finché non è stata creata la legge sarebbe tutta una cosa irrilevante. Ma sarebbe tipo l'apocalisse, aspetta, cioè la gente si organizzerebbe da solo. Aspetta, fallo finire, cioè, dopo interviene. Non si potrebbe fare perché si andrebbe contro comunque la legge. Ok, sentiamo cosa vuole dire. Che quando... quando uno parla è importante che quell'altro ascolti. Ma che ascoltino quello che dice lui, vi ricordo, e poi cos'altro dovete ascoltare? Ecco, quello che vi passa per la testa. Se no è inutile che lui parli. Se non lo ascoltate veramente, guardate che ascoltare e sentire sono due cose diverse, completamente diverse. Voi potete sentire senza capire. Ascoltare è sentire interpretando quello che arriva alla mia mente. D'accordo? Non è soltanto un ascolto rispettoso che vi chiedo, no. Quello è importante, sì, ma è una questione più... diciamo morale, no, vi chiedo di più, dovete ascoltare, valorizzare quello che lui vi dice, significa stare attenti a quello che vi fa venire in mente. Se facciamo questo siamo a cavallo, cominciamo a pensare tutti insieme veramente, altrimenti se ci sentiamo senza ascoltarci, no, ognuno rimane, non riesce a dare un contributo all'insieme, d'accordo? Pensare insieme è una cosa bellissima, perché si mettono insieme molte intelligenze, molte esperienze, molte menti, d'accordo? Molti punti di vista, e si amplifica, è come se diventassimo una sorta di intelligenza collettiva, va bene? Questo è pensare insieme. Diventa bellissimo, come quando si suona insieme. Immaginate, non so se riuscite a capire cosa significa, può darsi che qualcuno di voi ha questa esperienza, ma immaginate un gruppo musicale, tutti suonano, se si ascoltano reciprocamente inventano un pezzo che mai si era sentito prima e si divertono come pazzi chi suona insieme, d'accordo? Se ciascuno suona per conto proprio, non ascolta l'altro, è finita, non viene fuori niente di nuovo. Bene. Allora, sentiamo cosa dice lui, ascoltiamo cosa dice lui. Non penso che rimarrebbe una sorta di legge o altro, perché se avvenisse un fatto così ci sarebbe panico e la gente si dividerebbe, ci sarebbero magari fazioni... Cioè, non penso che rimarrebbe un governo. Ecco, allora, fermiamoci un attimo. Lui dice, in una situazione così come quella che abbiamo descritto prima, che all'improvviso l'indomani ci ritroviamo tutti senza soldi, non possiamo più comprare nulla, anche se le cose ci sono, non possiamo più comprarle, si diffonderebbe il panico, lui dice. Se non ci siamo organizzati prima, si diffonderebbe il panico. E dal panico potrebbe venire fuori anche io devo far mangiare i miei figli, me ne vado in giro e la roba che c'è intanto la rubo. Un conflitto sociale, d'accordo? Una guerra civile. Non funziona più niente, la ricchezza c'è in giro, intanto me la prendo. Capite? Quindi anche quello che ci sta dicendo lui può essere molto importante. Allora, sentiamo lei che non è mai intervenuta. In risposta a Damiano, cioè, non, come ha detto Zeno, non penso proprio che se mai ci trovassimo in una situazione del genere a qualcuno importerebbe di approvare una legge o comunque sia di far sapere a tutti una maniera per andare avanti, no? Credo che ognuno a quel punto penserebbe a sé, nonostante non sia. Ecco, guardate questa cosa qui e confrontatelo con quello che ha detto lei prima. Ognuno penserebbe a sé, d'accordo? Cioè si perderebbe uno spirito di comunità, di aiuto reciproco, di solidarietà reciproca all'interno della comunità. Ognuno, ciascuno penserebbe alla propria sopravvivenza. Ci sarebbero delle razze. Anche a discapito degli altri. Lui dice ci sarebbero, delle razze di più forti verso magari chi. Ecco, interessante come ci sta dicendo, ci sarebbero delle razzie da parte dei più forti a discapito dei più fragili, dei più deboli. Prego. Allora, dicevo, in effetti sì, è vero, cioè di certo non stanno a badare alle leggi, anche perché se si va dietro alle leggi in Italia ci vorrebbero anni per accettarle. E poi, infatti, in una situazione di panico, non penso, cioè sì, nessuno voglia accettare delle leggi e andare dietro queste cose. E poi, secondo me, sono tipo, se in Italia ci trovassimo all'improvviso tutti senza soldi, alla fine il governo ha sempre dei soldi da parte, quindi per un arco di tempo piccolo, ma comunque un arco di tempo, riuscirebbero a far andare avanti più o meno. No, ma stiamo dicendo che i soldi scompaiono da tutte le parti. Nel nostro esempio i soldi proprio scompaiono, sì. Non è che il governo che non ce li vuole dare, è che proprio non ci sono. È un esperimento ideale. Ci serve a ragionare. Volevo dire, poi cioè, secondo me però si creerebbe, cioè sarebbe la rovina, perché tutti noi siamo troppo abituati a vivere attraverso i soldi e non senza di quelli, nessuno abituato a stare senza di quelli, quindi saremmo tutti rovinati e la gente non riuscirebbe ad andare avanti, anche perché non vogliono trovare una soluzione perché non riescono a vederla, perché cioè, siamo troppo concentrati su quelli, secondo noi tutto gira intorno a quello. Sì. Cosa. Allora va bene, magari non riuscirebbero a trovare una soluzione subito nel tempo necessario, magari si instaurerebbero, state ipotizzando, cioè, conflitti, razzie tra le persone e così via, non sarebbe agevole trovare. Allora, prima di dare la parola a lei, vi metto ancora in quest'altra situazione. Perché vi ho messo in questa situazione così radicale? Mancano completamente i soldi. Per cominciare a farvi pensare a un'altra situazione. E se di soldi in circolazione non ce n'è abbastanza, invece di toglierli tutti in una notte, ogni notte ne tolgo un po'. Passa una settimana e ne ho tolti un bel po' dalla circolazione e poi ne tolgo ancora un altro po', e man mano cosa succede all'economia di un paese? Non me ne faccio accorgere subito, ma sto togliendo dalla circolazione. Sapete come chiamano questo gli economisti? Con due parole: una condizione di rarefazione monetaria. La gente comincia a dire non ci sono soldi, non si può fare. Eppure guardate, lei ci ha detto prima, i soldi non sono altro che un'unità di misura del valore delle cose. Le cose ci sono, la disponibilità a lavorare c'è, ma non ci sono i soldi. Questa condizione qui è detta di rarefazione monetaria. La gente non può più lavorare, ma se la gente non può più lavorare, può generare ricchezza? No. No. Allora, se cominciate a capire questo, cominciate a capire più del 60-70% delle difficoltà in cui ci troviamo oggi. Va bene? Allora, sentiamo lui che non ha mai parlato. Che dovrebbe decidere qualcosa che ci porterà fuori. Soldi, più soldi di quelli che abbiamo investito. No, intendo che ti devi fare una domanda: chi è che mette in circolazione il denaro? Quanto denaro si può mettere in circolazione? A cosa serve il denaro? Chi è che lo fa, che lo mette in circolazione? Che cos'è la ricchezza? Quali altre domande ci possiamo fare intorno ai soldi? A cosa servono effettivamente i soldi? Non è vero. Ecco, ma vi ho fatto anche, vi ho messo anche in un'altra situazione. E se ci abbiamo solo i soldi e siamo su un'isola deserta? Nulla. Cosa significa che, perché i costituenti hanno messo come primo articolo la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Chi è che effettivamente genera la ricchezza? Prego. Cioè, secondo me i soldi servono a mantenere una stabilità nella società, perché come ha detto lei, se ci troviamo in un'isola diretta, abbiamo 1 milione di euro, non ci fa niente, perché non c'è la società, non c'è nessuno che ci può aiutare a sua volta, e cioè nessuno che lavora e guadagna per dare a noi come facciamo noi. Quindi giustissimo come stai dicendo, continua. E niente. E quindi se su quest'isola deserta c'è solo una banca, mettiamo, tira fuori lei i soldi, ristampa lei i soldi, rimette in circolazione, e se non c'è la gente che lavora, si può generare ricchezza? Pane, frutta, verdura, vestiti, cosa barattiamo? Quello che barattiamo è il risultato del lavoro delle persone, no? Ma la gente ci va a lavorare se non la paghi? No. Si può convincere di andare a lavorare per pochi soldi. Lavori tantissimo, guadagni pochissimo. So bene come fare, va bene, accetto di essere schiavo. Guardatevi intorno. La quantità, il numero delle persone schiavizzate cresce, non solo tra i neri, ma a voi vi chiederanno di lavorare a gratis. Cioè, intanto ti fai un'esperienza, intanto lavori, ti fai conoscere. È successo il tuo fratello? Sì, perché sta cercando lavoro. Sta cercando lavoro e non lo trova. No, cioè, ora l'hanno chiamato, però mi ha detto che fino a... Il lavoro c'è, ma non ci sono i soldi, ti fanno lavorare a gratis. Sentiamo lei e poi lei. Okay. Ah, no, l'avevo dato. Sì. Okay. Per il fatto che ognuno pensa se non ci fossero soldi, secondo me è già così. Perché è già così. Perché non tutti, però già alcune persone ne sono così. Ho i soldi, solo per quei soldi faccio questo, però penso comunque a me. Se non mi danno i soldi allora non do da luce alle altre persone. Non lascio l'acqua in casa, penso già a me perché mi danno da lavorare, mi danno i soldi, se no non farei niente. Quindi la situazione tu dici che mette l'uno contro l'altro in qualche modo. Ma è già così perché già con alcune persone sono così. Questo lavoro mi fa schifo, lo faccio soltanto perché danno i soldi e perché se non mi danno i soldi non lo faccio. Sì. Interessante, come dici, pensate alla parola comunità. La parola comunità viene dal latino. Abbiamo detto, mi pare, una cosa. No. Viene dal latino comunità, anche la parola comunicazione viene da questo. E ci sono due parole composte latine, cum munus. Allora pensate che munus è dono e cum è insieme. Quindi la comunità è fondata su un dono reciproco. Come diceva lei prima, come ha detto anche lei, sul dono reciproco è fondato la comunità. Capite? Allora, in questa situazione, lei dice, nella situazione in cui viviamo oggi, praticamente la comunità è minata dall'interno. Perché va a finire che ognuno, lei ci diceva, pensa soltanto a se stesso, anche a discapito dell'altro. Bene? Sentiamo cosa ci dice lei. Perché volevo dire una cosa sul lavoro, in pratica quando cerchi lavoro ti dicono che devi avere anche un'esperienza lavorativa, ma se non lavori non hai esperienza lavorativa. Stai cercando lavoro perché voglio anche fare questa esperienza lavorativa, ma se non hai esperienza non lavori, se non lavori non hai. Brava, bravissima, sì. E questa è una condizione assurda, anche questa. E abbiamo detto, ma se il lavoro genera ricchezza e le persone non vengono fatte lavorare, la ricchezza la possiamo generare, la strada la possiamo costruire, l'ospedale lo possiamo costruire, possiamo sistemare la scuola, possiamo... Se ognuno non pensasse a sé, si potrebbe fare. Sì, si potrebbe fare. Però, allora, Bisogna capire bene che cos'è la moneta e qual è la posizione in cui ci troviamo. Abbiamo detto una particella infinitesima di tutto quello che c'è da sapere, però moltissimo rispetto a quello che normalmente le persone pensano. Abbiamo detto una particella piccola di tutto quello che c'è da sapere per capire meglio e più approfonditamente, ma moltissimo rispetto a quello che le persone normalmente pensano a proposito della moneta e del sistema economico. Prego, Damiano. Forse i soldi servono anche perché, siccome non tutte le persone pensano agli altri, pensano la maggior parte di se stessi, forse servono anche per dare uno sprono a queste persone che pensano agli altri. Nel senso, se tu lavori tu dai soldi perché il lavoro serve a tutti. E quindi ricevi una ricompensa. Certo, giustissimo. Cioè, serve una ricompensa per suonare le persone. Ripeti per la stessa. Serve una ricompensa per suonare le persone, al di là che sia un soldi o qualcosa, perché non tutti vanno agli altri. Sì. Quindi attraverso i soldi, intanto con i soldi si stabilisce una relazione. Io ho bisogno dell'idraulico in casa, lui viene da me, magari non l'ho mai conosciuto, lui si fida di me, io mi fido di lui, ma questa fiducia avviene attraverso questo scambio tra di noi, anche se non ci conosciamo, avviene attraverso la moneta, d'accordo? Allora, sono nate tutta una serie di domande su cui diciamo, potete riflettere, no? Intorno alla natura della moneta. C'era anche questa domanda: che cos'è una banca del tempo? Come potrebbe funzionare? Quali sono i limiti? C'è un'altra domanda in sospeso: che cos'è il baratto? Quali sono i limiti e come si può perfezionare? Il baratto si può perfezionare in un modo incredibile. Vi dico solo una difficoltà: se il baratto lo intendo in questo modo, sono un contadino che produce pomodori, ho bisogno di scarpe, cosa faccio? Vado con dei pomodori dal calzolaio e gli dico: guarda, ti servono i miei pomodori? Lui dice: ma io veramente i pomodori non so bene cosa farci. Allora io non posso comprare le scarpe, devo andare in giro, se produco armadi, con armadi sulle spalle per poterli vendere, oppure faccio un grande mercato in cui porto tutti i miei prodotti e ce li scambiamo. Dal punto di vista pratico è molto molto difficile. Allora la domanda è: come si può perfezionare il baratto in maniera da renderlo assai praticabile, interessante? Guardate, intanto vi dico una cosa, che il baratto lo praticano in Sardegna in un modo tecnologicamente assai assai avanzato. Ne parleremo. Ora ascoltiamo Perla e poi lei. Sta suonando, è suonata? No. Con qualcosa che? Interessa a tutti. Con qualcosa che interessa a tutti, importante. Vuoi aggiungere qualcosa, velocissimo? Sentiamo lei? Solo un attimo, abbiate pazienza, solo un attimo, facciamo dire a lei quello che gli è venuto in mente. Vai, possiamo. Aspetta, silenzio, silenzio, rilassatevi un attimo. Un attimo solo, così lei dice quello che voleva dire. Sempre la risposta è come da io so che farmi, allora non ti do le scarpe. Con i soldi ci puoi fare tutto. Invece se ti do le soldi, quello è come... Con i soldi ci puoi fare tutto, avete capito? I soldi sono, lei ci sta dicendo, i soldi sono i pomodori, l'armadio, le scarpe. Sono una sorta di jolly, va bene? I soldi sono una conquista dell'umanità. Però bisogna vedere chi li emette, che natura hanno. Poi ci sarà un argomento di matematica che è la percentuale e che ha a che fare con l'interesse che studieremo. Va bene? Se qualcuno pensa che non abbiamo fatto matematica si sbaglia. No, è matematica. Si è fatto matematica applicata all'economia. Abbiamo creato le premesse. D'accordo? Ok, grazie. Cioè, c'è una domanda sulla serva, secondo me. ricompensa che dai a qualcun altro che a sua volta da te ci aiuta in vicenda. Bellissimo, giusto. Giusto. Sì. Ciao. Ciao.